ti chiedo da vecchia, come io sarò pelata, con tette e culo in giù e della gobba. Ne vogliamo parlare, nessuno mi farà, chi me la palperà, né batuage chi mi prenderà. Ricchiona vecchia mai sarò, depressa mi ammazzerò, rugosa non diventerò, il suicidio sì. Penso a questi anni in cui tutti mi volevano far, quanti soldi che io guadagnavo. Ora con l'INPS che soldi avrò, nemmeno una badante io mi potrò pagar, nessuno mi farà, chi me la palperà, né batuage chi mi prenderà. Ricchiona vecchia mai sarò, depressa mi ammazzerò, rugosa non diventerò, il suicidio. Ricrescita ai capelli, scarpe ortopediche, pillole per la pressione e soprattutto la menopausa. Ricchiona, sì, ma vecchia. Ma ricchiona vecchia mai sarò, depressa mi ammazzerò, rugosa non diventerò, il suicidio.